in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. I am here with students at Wakefield High School in Arlington, Virginia. And we've got students tuning in from all across America, from kindergarten through 12th grade. Elegante, ispirato, piuttosto di buon umore, ha fatto alla fine il suo tanto discusso discorso agli studenti il presidente Barack Obama ieri pomeriggio alle ore 18 ora italiana, e si è sgonfiato il caso che era nato attorno a questa comunicazione che nell'inaugurazione dell'anno scolastico americano la Casa Bianca aveva pensato di indirizzare agli studenti americani. La minaccia di politicizzazione del discorso in sostanza si è sgonfiata, c'era del paternalismo, tutto al più lo hanno riconosciuto gli stessi critici, ma niente politica nel discorso di Barack Obama, come ipotizzato, adombrato, supposto da molti osservatori, soprattutto conservatori, che avevano acceso le micce attorno a questo discorso, intimando soprattutto ai presidi delle scuole d'America di tenere gli studenti alla larga, all'oscuro, lontano, a televisioni spente rispetto a quanto il presidente aveva loro da dire. Invece si è parlato nel discorso di Facebook, si è parlato naturalmente di sogno americano, si è parlato di influenza. E come vi raccontavamo ieri nella anticipazione che vi abbiamo dato del discorso, del testo, del discorso di Obama, si è parlato da Arlington, Virginia, da questa scuola dove poi il presidente ha anche risposto ad alcune domande degli studenti, si è parlato soprattutto del concetto di responsabilità. Obama ha parlato anche della sua esperienza tra i banchi di scuola quando era piccolo, quando abitava in Indonesia, si alzava alle 4:30 per seguire le lezioni della madre. Ci sono molte cose quando andavo a scuola di cui non vado fiero, avrei potuto fare meglio, ma sia io che mia moglie Michelle abbiamo avuto diverse seconde opportunità nella vita. Voi non avrete necessariamente successo al primo tentativo, ha detto ancora Obama ai ragazzi americani. Anche Michael Jordan ha citato questo grande esempio dello sport americano, dovette lasciare la sua prima squadra. Perfino J.K. Rowling, l'autrice, no? di Harry Potter, si vide chiudere la porta in faccia 12 volte prima di pubblicare Harry Potter. Non lasciate mai che siano i fallimenti a definirvi, ma fate in modo che siano un insegnamento. Il futuro dell'America dipende da voi. Ecco il mandato di condivisione, di responsabilità espresso da Barack Obama nel primo dei due grandi discorsi di questa settimana. Il secondo arriva tra poche ore, un discorso comunque questo agli studenti, ripeto, che è temuto molto in arrivo, poi adesso viene guardato con una certa simpatia, una certa soddisfazione da tutta America. There's a controversy brewing right now and it's probably going to take fruition today because, as you know, President Barack Obama is supposed to give a speech to, anche se c'è chi poi alla fine non gliela vuole dare vinta al presidente, nella fattispecie Whoopi Goldberg, no? L'attrice che conoscete tutti benissimo, una delle protagoniste di Ghost, di tanto cinema americano o leggero, afroamericana come il presidente, però anche lei un po' travolta da questo momento così controverso in cui chi molto ha sostenuto Obama adesso, forse può essere anche che sia una moda, magari ci sono delle motivazioni. Comincia a frenare, a fare un po' le pulci al presidente. Nella fattispecie ne ha parlato Whoopi Goldberg nel suo programma televisivo, un programma divertente che tra l'altro trovate in ampi stralci su internet. Vi invito di tanto in tanto a dargli un'occhiata, si chiama The View ed è su ABC, e infatti da ABC è tratto l'insert che vi abbiamo appena presentato. Il programma consiste in cinque signore dello spettacolo americano, due soprattutto delle vere e proprie star, appunto Whoopi Goldberg e Barbara Walters, una decana, una veterana del grande giornalismo americano, che giorno per giorno affrontano un argomento o più semplicemente mettono in mezzo un personaggio. Pochi giorni fa, per esempio, è capitato a quel Glenn Beck di cui abbiamo già parlato ieri, un anchorman di Fox, lo stesso che ha causato, che è stata l'origine con le sue indagini, le sue supposizioni delle dimissioni di Van Johnson dalla posizione di zar dei Verdi alla Casa Bianca. Questo Glenn Beck è stato messo lì in mezzo da cinque signore e in particolare Whoopi Goldberg, vi possiamo garantire, non gliene ha risparmiata una. Il programma si chiama The View, appunto. Cercatelo su ABC News. The crowd inside the Unitarian Universalist Church rises to their feet, celebrating a life cut too short by a fiery car crash. Toni commossi da CNN, invece, sui video, sulle televisioni americane in questi minuti, a salutare il risveglio degli americani per questa notizia, che è di quelle che naturalmente così inducono a essere un po' più buoni. È una notizia che arriva da Buffalo, New York, è stata ripresa per prima da CNN, credo farà il giro d'America e forse il mondo molto in fretta. È una storia triste ma anche con un finale sorridente, la storia di un bambino di 7 anni che si chiamava purtroppo Asa Hill, morto in un incidente automobilistico dopo che la sua macchina ha preso fuoco, la macchina a bordo della quale viaggiava. Ebbene, al termine del funerale, un funerale con una grande partecipazione popolare nella città di Buffalo, in una chiesa che si chiama Unitarian Universalist Church a Elmwood, un sobborgo di Buffalo, più di 1000 persone nella chiesa e fuori dalla chiesa a salutare il bambino se ne andava. Ebbene, i suoi genitori, due signori neri piuttosto giovani, lui Amilcar Hill con dei fantastici dreadlocks, tra l'altro, una pettinatura rasta, e lei Rama Girmazion, un nome impronunciabile. Ebbene, alla fine del funerale del bambino si sono sposati per dare realtà, concretezza a quello che era stato sempre il sogno, l'insistenza del piccolo Asa. Lui voleva questo da noi e noi abbiamo pensato fosse giusto in questo estremo saluto darglielo, e l'America naturalmente si è commossa e ha pianto. Primo piano. E ci siamo, guarda, possiamo prima alzare un attimo Fox in questo momento. Sentiamo. What they're telling them quite clearly is that we have to do something about healthcare. We've talked about this. C'è Robert Gibbs, quello che state ascoltando in diretta, in sottofondo in questo momento, ovvero il portavoce della Casa Bianca, che sta cominciando a dare le anticipazioni sul discorso che stasera alle 20, quindi a tarda notte per quello che riguarda l'Italia, saranno le 2 di notte, solo i nottambuli potranno seguire il discorso di Barack Obama dedicato alla questione della riforma sanitaria. Un discorso che verrà tenuto davanti alle Camere riunite, un discorso che verrà trasmesso in diretta in prime time alle 8 di sera su tutti i teleschermi americani. Infatti, salve appunto Fox, che come sentite in sottofondo sta in questo momento commentando il discorso. Ogni televisione dedica vaste anticipazioni alla parola attesissima di Obama. Sentiamo. The President of the United States. A joint address to Congress tomorrow night, an effort to breathe new life into the fight for health care. Pensate che c'è anche in questo momento una manifestazione in atto nel Michigan organizzato dai Tea Party, no? Questa opposizione spontanea di ampio colore populista che si oppone decisamente al provvedimento di Barack Obama di estendere l'assistenza sanitaria a tutti gli americani, ma soprattutto di rendere pubblica almeno una parte della sua proposta di assistenza, venendo quindi a contravvenire alla natura tipicamente privata di questo procedimento negli Stati Uniti. È addirittura riapparso Joe the Plumber, ve lo ricordate? Joe l'idraulico, il personaggio che a lungo ha accompagnato le ultime settimane come oppositore della campagna elettorale di Obama. È apparso in queste manifestazioni populiste di destra, anti-Obama. C'è chi dice che Obama non abbia i numeri nel suo tentativo di garantire copertura ai 50 milioni di americani privi di assicurazione sanitaria. I due rami del Congresso sono su posizioni diverse. La Camera è pronta ad appoggiare la proposta di Obama, favorevole, non intransigente, sulla cosiddetta opzione pubblica. Situazione invece più fluida in Senato, dove si cerca di raggiungere un compromesso secondo il progetto messo a punto da Max Baucus, presidente della Commissione finanziaria, alla ricerca dell'appoggio dei democratici più reticenti, come Joe Lieberman, no? il bastian contrari del Senato americano. C'è stata un'intervista su ABC che viene diffusa proprio in questi minuti da Good Morning America, la nostra controparte, il nostro fratello maggiore della ABC, in cui Barack Obama si è detto aperto a nuove idee sulla riforma della sanità pur di arrivare a ottenere qualcosa. Tutti parlano della Gang of Six, questi sei personaggi, tre democratici, tra cui il già citato Baucus, e tre repubblicani moderati, che provano a mettere a punto l'accordo bipartisan. Oggi Obama parla agli americani, domani anche con i nostri esperti. Commenteremo insieme. Tonight on trampoline, the Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene! Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the war. Buongiorno America. And all these holy people got themselves begat through original sin? Well, all that sin didn't make them any less holy? Your Honor, where is this leading us? What has it got to do with the state versus Bertram case? E queste sono alcune battute da un vecchio film del 1962 firmato da Stanley Kramer, si chiamava E l'uomo creò Satana, e ci servono per introdurre lo spazio sulle prime pagine dei giornali americani, nella fattispecie le pagine culturali, in particolare quelle del New York Times, dove oggi il protagonista è Charles Darwin. Appunto di Darwin, del famoso processo della scimmia del 29, parlava il film con Spencer Tracy che abbiamo appena ascoltato. Proprio di Darwin si occupa oggi il New York Times nel suo inserto culturale. Ricorda, a chi non se ne fosse accorto, che il 2009 è l'anniversario della nascita, 200° anniversario della nascita di Darwin, e anche il 150° anniversario della pubblicazione del suo capolavoro, il suo libro fondativo, Le origini della specie. Ed è anche il 2009 il momento in cui Darwin riaffiora al cinema, molti anni dopo, quasi mezzo secolo dopo il film con Spencer Tracy, che riguardava peraltro un processo, famoso processo americano, nel dibattito tra evoluzionismo e creazionismo. Adesso invece arriva una vera e propria biografia cinematografica di Charles Darwin, si chiamerà Creation, Creazione, prevede la regia di John Amiel, Paul Bettany nella parte di Darwin, Jennifer Connelly nella parte della moglie di Darwin, un personaggio importantissimo nella sua vita, che si chiamava Emma. Il film debutta al Festival di Toronto tra pochissimi giorni. E sempre di biografie cinematografiche si occupano parecchi giornali americani oggi, con l'annuncio, la comunicazione della realizzazione di una biografia della mamma del presidente Obama. Qualsiasi cosa tocchi Obama naturalmente è ormai nel mirino della comunicazione, dello spettacolo americano. Nella fattispecie qui c'è un grande regista coinvolto, si chiama Charles Burnett, uno dei veri maestri del cinema afroamericano. Non so, Spike Lee lo cita come il suo maestro assoluto, e è a lui che viene affidata la realizzazione di uno spirito molto generoso, un'anima generosa, Stanley Ann Dunham. Questo è il titolo della biografia, più che altro documentaristica, che verrà dedicata per l'appunto alla mamma, no? La famosa mamma bianca di Barack Obama. Ha dato al nostro presidente molto della sua essenza e del suo senso di compassione per la gente. Fu una donna affascinante in anticipo sul rispetto al suo tempo, dichiara uno dei produttori del documentario, che naturalmente strizza l'occhio alla Casa Bianca e spera in una partecipazione del presidente. A proposito di presidente, parla su due riviste americane molto diffuse, soprattutto nella provincia americana, si chiamano Men's Health e Women's Health, la salute degli uomini e quella della donna, hanno anche dei corrispondenti e dei corrispettivi italiani queste testate, e Obama salta fuori anche lì, salta fuori con una questione che è nel cuore del problema della obesità, che in America, come ben sapete, è un problema veramente da prima pagina. Barack Obama starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di tassare le bibite gassate e altri prodotti a base di zucchero, lo dice nella intervista pubblicata da entrambe queste testate. Si tratterebbe di un modo per contrapporsi a stili di vita non salutari, di cui peraltro il presidente più volte si è dichiarato fermo nemico. Penso sia una idea che dovremmo esplorare, ha detto. Non c'è dubbio che i nostri bambini bevano troppe bibite gassate e tutti gli studi sull'obesità mostrano che c'è un'alta correlazione tra l'aumento dei consumi di bibite gassate, obesità e quasi tutto il resto. Ovviamente non è l'unico fattore, ma è uno dei fattori principali. Il nostro fattore principale in questo momento è il tempo, quindi andiamo direttamente alle notizie dalla Cina. Buonanotte, Cina. Avete capito che tutti i giorni dedichiamo una finestra a quello che è l'altro polo del XXI secolo americano. Esiste una bipolarità, una interconnessione crescente e sempre più interessante tra i due mondi. Per esempio, anche se si parla di cose come gli animali domestici, succede che arrivi dagli Stati Uniti e per la precisione da Science Times, l'inserto scientifico del New York Times, un interessante articolo che poi risale su dritto fino alla Cina. Parlando di cani, l'interrogativo è: cosa spinse l'uomo ad allevare per la prima volta il lupo, dando vita così al cane? Lo diamo per scontato, ma insomma i nostri antenati proprio questo fecero, si presero in casa un animaletto che inizialmente non doveva essere troppo amichevole. Ebbene, il quotidiano riprende oggi una ricerca svedese secondo cui le origini del cane andrebbero ricercate nella antica alimentazione della Cina del Sud, in un tempo che va collocato tra 11.000 e 14.000 anni fa. Ne parla uno scienziato che si chiama Peter Savolainen del Royal Institute of Technology di Stoccolma, che ha pubblicato a riguardo uno studio analizzando il DNA di esemplari canini sparsi in varie parti del mondo, scoprendo che tutti i cani sembrerebbero appartenere ad una sola casata. Anche qui Darwin la fa da padrona, il che suggerisce l'esistenza di un singolo evento di addomesticazione, ovvero qualcuno ha avuto il coraggio di chiamare il lupo dentro la propria capanna e di condividere la sua vita con lui, anche se poi la finalità, si viene a scoprire dallo studio di questo scienziato svedese, non era esattamente amichevole. Infatti lo storico passaggio da lupo a cane si verificò nel sud della Cina, quando alcune comunità di cacciatori raccoglitori iniziarono a catturare i lupi che si aggiravano attorno agli accampamenti in cerca di cibo. Una volta presi, i lupi venivano nutriti, allevati, per poi finire come piatti principali a loro volta in una catena evoluzionistica impressionante. Se me la passate, insomma, nei grandi banchetti si mangiava cane, no? Una abitudine che a più riprese, più volte è stata poi criticata, guardata anche con orrore da Occidente, ma che resta piuttosto solida, soprattutto nelle parti della Cina più periferiche. Con il tempo, naturalmente, e con le sue qualità, i cani poi avrebbero acquisito, come dire, dignità all'interno della vita dell'uomo, anche se in Cina mi sembra questa dignità sia un po' più in difficoltà. Cani da guardia, cani da traino, cani da caccia e tutto quello che volete, ma in Cina ancora francamente se li mangiano. Questa è la prima notizia. Ve ne do un'altra dalla Cina che mi sembra importante, perché c'è un G3 all'orizzonte da seguire con il massimo interesse, un G3 che riguarda Tokyo, Pechino e Seoul, quindi Cina, Giappone e Corea. Wen Jiabao, il premier cinese, auspicherebbe un incontro quanto prima con Atoyama, il leader del Partito Democratico, vincitore alle elezioni, alle recentissime elezioni giapponesi. Wen, nel corso di una riunione in Cina con imprenditori e uomini d'affari del Sollevante, ha fatto sapere di essere intenzionato a discutere la futura direzione di questi rapporti bilaterali da sempre difficili, e vi garantisco che un G3 Corea, Giappone, Cina in questo momento, come dire, insieme a quel G2 Stati Uniti, Cina, di cui noi stessi in un certo senso siamo l'incarnazione, sono momenti caldissimi, forse più anche, no, della grande rappresentatività del grande carrozzone del G20 periodicamente in scena. Bene, sono Stefano Pistolini, abbiamo dato anche oggi il buongiorno all'America e la buonasera, la buonanotte ai cinesi che vanno a dormire. In redazione Antonella Migliaccio, in regia Alessandro Cappini e Valerio Rocchetti a Roma e Filippo Aureggi a Milano. Esistono ancora le nostre pagine, quelle che provengono da Jefferson, quindi redazione Jefferson 2, la potete ancora cercare, stiamo cambiando nome, mettendo tutto in linea, email e quant'altro. Seguiteci giorno per giorno e presto saremo in quota. Intanto domani 13:30, appuntamento qui su Radio 24.